cosa più complicata dal punto di vista. Abbiamo parlato soprattutto di principi di neuroriabilitazione, sì, che sono alla base di queste nuove metodiche che stanno, come dire, interessando sempre, interesseranno sempre di più la riabilitazione. In particolare il concetto dell'assistenza, della terapia assistita, cioè oltre che dal terapista anche da un eventuale robot, dispositivo elettromeccanico. Quindi i concetti sono fondamentali, perché ve li chiederò. Avevamo espresso, cioè, i concetti nuovi che stanno nella neuroriabilitazione erano la precocità. No? Che cosa è la precocità? Iniziare il trattamento riabilitativo il prima possibile. Iniziare il trattamento riabilitativo il prima possibile. Ok, perché se l'ha visto, avevamo fatto degli esempi, le curve, le topolimiche, hanno usato lo stroke, eccetera. Poi l'altro concetto era. Comunque non vedere l'ausilio come una sostituzione. Devo fare la mazza come alle elementari. Giovani per aver avuto l'insegnante con la manza. No, nessuno insegnante. Allora, parlavo anche della non sostituibilità, comunque del terapista, che l'ausilio era. Oh, ragazzi, è l'una per tutti. Già vi ho fatto mangiare per tre quarti d'ora, ci ho indicato di tre quarti d'ora. Questa, cioè, ve l'ho concesso proprio perché modo dovete stare zitti, cioè a te, a tutto quello che dice. Ma anche perché è un corso opzionale e io le domande ve le faccio al corso opzionale. Se voi fate attenzione qui, non saranno tanti i concetti che vi chiedo, sono 5 i concetti che vi chiedo, e se ve li inculcate adesso, serve che a casa una sera vi leggete quelle 10 pagine. Cioè, se muovo state disattenti, dopo vi tocca, perché pure l'anno scorso, cioè non è che uno passa sempre il corso personale, dopo tocca rifarlo. Cioè, quindi fate attenzione perché mo già sta ripetendo una delle 5 domande che vi faccio. Se la capite è quella, cioè sono a posto. Vai. Quindi concetti che presuppongono, quindi alla base, quindi background neurofisiologico, che stanno alla base della costruzione e dell'ipotesi della terapia con assistenza robotica. Precocità dell'intervento. Quindi la riabilitazione iniziata il prima possibile. Che vuol dire il prima possibile? Uno poi da poco speculare. Quando una lesione è più acuta, stiamo parlando di neurologico, ictus, sclerosi multipla, SLA, Parkinson, trauma cranico, quello che vi pare, lesione del primo moto neurone, ok? Vuol dire che uno più precocemente la fa, più il paziente è grave. Quindi c'è, cioè, in termini di rieducazione, il fisioterapista, proprio con impegno fisico, fatica, no? Perché è più facile trattare un cronico rispetto a un subacuto, perché al subacuto c'ha relativamente poco da fare rispetto al suo impegno fisico. Quindi precocità. Altro con? Ma comunque, salute. Neuroplasticità, comunque. La neuroplasticità, quella lì è, come dire, un po' il meccanismo che sta alla base, che ci, come dire, ci avalla tutti questi concetti importanti. Oltre alla precocità, qualcosa, ti ricorda qualcun altro che avevamo detto? Quanta terapia, come farla? Quanta terapia, quindi concetto oltre alla precocità di l'intensità, no? Quindi più terapia faccio, meglio è. Facendo attenzione che questo tutto non può essere un tutto assoluto, il paziente si stanca, la neuroplasticità non è solo positiva, è anche negativa, quindi dobbiamo trovare il modo per farne, per aumentare l'intensità senza che sia poi negativa. Poi quale altra era? La modalità intesa, noi come l'avevamo chiamata, come... Voi ricordatevi sempre che nel futuro la riabilitazione, adesso ancora non ci siamo perché la riabilitazione sta un poco indietro rispetto alle altre scienze mediche, siamo un po' come nel Medioevo, no? Ancora. Piano piano poi ci sta l'illuminismo. Quando arriveremo al passo con la cardiologia, la reumatologia, la neurologia, la riabilitazione sarà come il farmaco, no? Le prescrizioni saranno molto più precise, cioè si dirà precisamente quanta terapia, quante volte, per quanto tempo. Che terapia. E che terapia, no? Cioè questo è un po' l'ambizione, trattare la riabilitazione come il farmaco, cioè ben delineata e precisa, senza sempre in accordo nell'equipe, non so, non sto comunque la prescrizione dell'ordine medico. Allora con le lobby farmaceutiche ci sono le lobby fisioterapiche. No. Già c'è stanno le lobby. Non c'entra quello, io non sto dicendo del. Non sto. Cioè, il programma, cioè vuol dire, io dico anche in termini di obiettivi, no? Cioè, poi probabilmente come è adesso il quanta e quale la deciderà sempre il fisioterapista, perché voi siete comunque tutelati da un decreto ministeriale su quello che comunque avete margini, cioè ci sono all'interno di un'equip, non è che la responsabilità è solo mia, se succede qualcosa andate anche voi dal magistrato, cioè nel senso che comunque si parla di responsabilità condivisa, la responsabilità del paziente è tutta mia, però voi avete margini di azione all'interno di un programma riabilitativo, diciamo che anche se certe volte il terapista che lavora da 30 anni conosce quel paziente e sa cosa deve fare, cosa vuol dire? Identificazione degli obiettivi, no? Quello lì è un compito medico. Però in un'equipe si ragiona, quindi è di entrambi. Diciamo che come responsabilità appartiene più al fisiatra, all'ortopedico, al neurologo, a chi è l'ortopedico che gli stila il programma, identificare gli obiettivi. All'interno di quegli obiettivi, cioè il programma riabilitativo, questo lo vedremo bene col corso che farò con gli indirizzi, dove parleremo di obiettivi, di programma, di cartella, di come parlare, di come tradurre quello che voi, il vostro lavoro, in termini proprio di parole, lo definite, cioè il medico suggerisce, ma la definizione dettagliata, precisa, la fa il fisioterapista, cioè nel senso che quando io scrivo recupero della motricità, del reclutamento volontario delle fibre muscolari in un paziente neurologico, e poi a voi sta in base alla vostra preparazione al tipo di paziente se voi usate il CABAT, il COBAT, oppure fate un'altra determinata cosa, no? Cioè non è cosa che... però quello che bisogna raggiungere riguarda tutti. Mi sono già perso, di che stavamo parlando? Ah, dell'intensità. L'intensità quindi è importante, e anche il modo. La terza cosa è il modo, come l'avevamo definito per questo, perché poi il modo, qua ognuno si scontra per lo più con le scuole di pensiero, secondo Bobat, il modo di fare la riabilitazione è soprattutto nel subacuto neurologico, come dire, di inibire, di preoccuparsi tanto di inibire l'emergere degli schemi patologici o schemi primitivi, ok? Quindi la triplice flessione, la triplice estensione, quindi preoccuparsi molto di spezzare queste sinergie, è giusto? È giustissimo, ok? È giustissimo. Però per tutto quello che vi ho fatto vedere, cioè tutti i finori neurologici sono stati trattati con Bobat in tutto il mondo, vi ho fatto vedere i dati delle persone che tornano a camminare, il mondo si è chiesto, è giusto questo? E non si dubita, ok? Non mi prendete come quello che dice contro il Bobat, no, è giustissimo. La domanda è tutto? Abbiamo fatto abbastanza? La risposta è no. Possiamo fare ancora di più, perché vi ho fatto vedere, poi ve li do così ve li studiate pure, c'è 55% di persone che tornano a camminare, 18% che tornano a camminare fuori casa, sono pochi, no? Almeno tentiamo di fare di più. Ci sta la possibilità di fare di più? Secondo la letteratura e la ricerca medica, negli ultimi 10 anni ci sta l'opportunità di fare di più, capito? Tipo con quella macchina di GetTrainer e lo studio che abbiamo fatto noi abbiamo dimostrato che ogni 5 pazienti, odds ratio 5, qualcosa, cosa vuol dire? Che ogni 5 pazienti che si trattano al GetTrainer, uno riacquista un cammino autonomo che non avrebbe acquistato, capito? Quindi non è che fai miracoli, cioè le parole sono importanti, no? Vanno interpretate. Funziona quella macchina? Dipende da chi ci metti, qual è l'obiettivo. Funziona in tutti? No, è una probabilità. Cioè, statisticamente l'abbiamo quantificata noi su una 50 di pazienti. Ogni 5 trattati, uno ne salvi, tra virgolette, no? Questo è così opera la medicina, capito? È come la pillola anticoncezionale, no? Funziona sempre? ma approssimativamente possiamo dire di sì, ma non c'è un 100%, quindi X, capito? Qualcuno poi fa fare cioè è sempre il concetto, qua chiaramente le percentuali sono sempre diverse, cioè nel senso c'è un 25% di probabilità, 20%, perché se uno non 5 20% di probabilità di tornare, cioè è importante anche la comunicazione. Quando il paziente viene da me, dottore voglio fare quella macchina, mi fanno, e i familiari mi dicono ah ma quella macchina fa tornare a camminare, uno deve essere corretto e chiaro, lei che è in fase subacuta ha maggiori chance di chi è in fase cronica, perché se a me mi arriva un paziente cronico in carrozzina, no? E quello mi dice voglio fare quella macchina perché l'ho vista in TV e voglio tornare a camminare, uno dice calmo, cioè, se non c'è riuscito in un anno non ci riusciamo neanche adesso, neanche ci vuole il mago d'arcella, no? Cioè nel senso che deve essere chiaro nella comunicazione. Nel subacuto invece uno dice, cioè ci sono delle evidenze che può tornare, cioè che uno ha maggiori chance di recupero, in genere una persona su 5, no? Cioè la probabilità può darsi pure che non è lui, cioè, o no? Quindi insomma dipende da caso a caso. E questo modo quindi che nel nuovo altera la preoccupazione di inibire gli schemi motori, scusate il volo pindarico, per i principi nostri, ok, si chiama task oriented, si chiama compito specificità. Cosa vuol dire compito specificità? Io una domanda che ho fatto anche l'altra volta sulla compito specificità, nel senso la compito specificità è comunque andare a restituire o comunque andare a lavorare con il paziente sul quello che effettivamente poi c'è sempre il gesto nel quotidiano, cioè un po' quello che dice anche Perfetti, in quel senso. C'è. Cioè io non vado a riabilitare la pressa estensione della spalla o l'abduzione della spalla, quello mi chiedevo. L'elemento di questo infatti per quello poi no uno come dire bisogna uscire secondo me, io in particolare in generale sono un po' eclettico, cioè mi piace vedere varie cose, non per fare poi il minestrone, perché il rischio è quello quando uno poi guarda troppo tutto. Però c'è, vuol dire, esiste per esempio l'altro giorno che ho parlato della motor imagery, l'immaginazione motoria, è una cosa che ai terapisti, a differenza del gate trainer, piace molto. Perché piace molto? Perché è un concetto perfettiano. Però c'è, cioè, questa è una motor imagery, cioè a nessuno è vietato di prendere, come dire, non è che uno ha preso da là, cioè Perfetti ha teorizzato delle cose che sono importanti a livello neuroriabilitativo, cioè ha detto che la parte cosciente o la mentalizzazione di quell'esercizio è propedeutica al recupero. Ok, questo è una cosa bellissima, non ci si può interpretare tutto il mondo, anche perché se venite qui Perfetti riuscite a fare 3 pazienti su 100, perché le persone ci stanno con la testa, perché sono chiaramente sono neglect, non parlano, afasiche, cioè sono pazienti troppo gravi per attuare, cioè Perfetti è applicabile nel paziente lieve e nel paziente cosciente, nel paziente che deve recuperare l'impaccio motorio. Mi ha avanzato di recupero. Esatto, quindi cioè, mettiamoci più nell'ordine di idee, secondo me, che cosa che non ha mai fatto la riabilitazione, che a seconda della, che cioè che non esiste un paziente uguale a un altro, quindi non li possiamo riscatolare, no? A seconda del tipo di paziente li dobbiamo dare la terapia. In Perfetti è un bellissimo concetto, vale per alcuni. La motor imagery è molto nuova, prende molto dal Perfetti, ma è motor imagery, cioè immaginazione motoria, capito? Qua si parla di compito specificità. Lui diceva non fare la flessoestensione isolata. Beh, quello secondo me è un concetto che c'è anche per esempio il sabato, no? Anche il sabato integra in delle diagonali, cioè comunque non c'è la finalizzazione del compito, però c'è comunque una facilitazione dovuta alla sinergia di più muscoli verso un obiettivo, no? Quindi io quello lì, cioè un training ideale me lo immagino che prevede sia quella fase singola, ma che assolutamente debba prevedere la fase in cui quel movimento è integrato in una funzione, prendere il telefonino, prendere la forchetta, no? Però senza arrivare poi all'estremo della terapia occupazionale, no? Perché non è quello l'obiettivo nostro, quindi il paziente che sta in una situazione simil lavorativo, simil casa, che muove, fa, si adatta, eccetera. Questa compito specificità è importante perché mira a far eseguire il compito da rieducare nella maniera più prossima alla normalità. Domanda: se il paziente ha un deficit, come lo faccio? È un problema, no? Perché dire a un paziente che ha una sfumata epifalesi, che cammina col bastone, cammina il più vicino possibile al normale, io ci arrivo, perché quello deve alzare un po' di più la gamba, deve non far cadere il piede, no? Ci possiamo stare. Ma a un paziente che è in sedia a rotelle, come gli dico, fai il compito della deambulazione in maniera più vicina al normale se non lo fa proprio? E qui che ci vengono in aiuto tutta una serie di strumentazioni che possono essere dal... Ho fatto un muro pindarico, non ho fissato questo muro pindarico, c'è da fare. Eccolo qua, per esempio. No, perché non no, stand by il... Ci aiutano una serie di cose che non sono solo i dispositivi elettromeccanici, ma tutta una serie di aggeggi che la tecnologia ha inventato, che mirano in maniera più... Voi dovete immaginare la... come dire, la neuroplasticità per sviluppare queste reti neuronali nel modo corretto ha bisogno di un feedback di qualcuno che gliele faccia vedere, come voi che per insegnare a guidare la macchina non vi hanno semplicemente fatto vedere al computer, non vi hanno semplicemente fatto toccare il volante, ma ve l'hanno anche fatta guidare. L'avete guidata per 10 volte, più l'avete guidata, più l'avete appresa. La stessa cosa è per la deambulazione, ve la devono far fare tutta, più la fate e più l'encefalo capisce che è quella la via da percorrere, capito? Che cosa è? Per esempio, dopo riguardiamo questo motor learning program, perché è un po' come, cioè, la tecnica riabilitativa, no? Che l'hanno teorizzata, cioè a voi terapisti vi piace molto teorizzare delle, come dire, delle... proprio fare delle teorie e dire questa è una tecnica, no? Per me, medico e ricercatore, mi interessano i concetti che ci sono alla base, ok? A voi, cioè, vi serve molto ed è giusto che sia il libro, poi dice tecnica di... E qua sono, questa tecnica si chiama Motor Learning Program, l'hanno inventato due fisioterapisti 15 anni fa, si chiamano Carr e Shepard, sono australiani. Ed è una cosa che io vi consiglio di, quantomeno, anche se nessuno ve la insegnerà, perché i nostri terapisti docenti sono formati su altro ed è, come dire, quello lì è l'imprescindibile. Con questo per il momento si riesce a sopravvivere, però vi consiglio magari di sfogliarlo, perché non si sa mai, insomma, potreste essere dei fisioterapisti moderni e leggerlo, perché è interessante, no? Per esempio, fanno parte, no? Con il biofeedback, voi lo vedete comunemente già nelle palestre, no? Biofeedback e funzionare a questo tipo di terapia, perché il biofeedback mediante un controllo cerca comunque di farti ripetere nel modo più vicino al normale quel compito. Cioè, se io il piede lo tiro giù, no? Nel biofeedback, per esempio, triggerato, sapete cos'è un biofeedback? È una cue acustica sensoriale, un feedback, un ritorno di uno stimolo che ci dice ok, l'hai fatto bene. Questo ritorno può essere la puntura, l'acustica, il coso che si illumina e il segnale trasdotto. Il segnale che prende può essere un sensore sotto la scarpa, mettete un paziente che cammina che non appoggia perché c'è una retrazione, no? Se mi accorgo che questa retrazione è lieve, io posso mettere un feedback, un sensore di pressione dentro la scarpa, così lui lo deve suonare, per cui io sto facendo un allenamento della deambulazione col biofeedback. Biofeedback per il facciale, nell'emiparesi del facciale, nella paralisi a frigore o nell'ictus. Io gli metto le EMG di superficie, quando il muscolo arriva a una soglia di reclutamento, suona. Quando il paziente lo tira su, ma poco, suona, ok? Il biofeedback serve a quello, quindi serve a aumentare l'intensità, a farlo nel modo più corretto possibile, ok? Poi non è detto che il biofeedback, cioè, non è vero il contrario. Se uno dice, il dottor Morelli ci ha detto che il biofeedback fa parte del motor learning program, No, lo stiamo, io sono quello che smonta le pareti, non che, che monta i muri, ok? Cioè, la Jeep, e per muri intendo, di qua ci sta il Bobat, di qua ci sta il Kabat, e di là ci sta ancora il Perfetti col muro di Berlino in mezzo, no? La Jeep, sapete cos'è? La paletta. La paletta, sì, e nel senso questa è, guardate, questa qua è una cosa, vi deve servire da esempio di quanta strada ancora deve fare la riabilitazione. Negli ultimi 10 anni le evidenze più importanti nella riabilitazione ci sono state con quella palettina idiota, e chi se l'è inventata ha rischiato di vincere quasi, non dico il Nobel perché non lo vincerà mai uno di riabilitazione il Nobel, però cioè ha fatto fare alla neuroriabilitazione dei progressi che sono incredibili. Per chi è interessato gli posso passare qualche rivista, questo si chiama Taub, le sue ricerche sono state pubblicate su Science, su Nature, sono state poi divulgate, tante volte se ne parla anche su Focus, perché hanno dato luogo a un dibattito proprio sulla neuroplasticità che è clamoroso. Cioè, che cosa fa questo qua? Sapete un pochettino il meccanismo? Si chiama Constraint Induced Movement Therapy, quindi terapia del movimento indotta da costrizione. Quale costrizione? La palette si mette sull'alto sano o sull'alto affetto? Sano. Perché devo costringere l'alto sano? È spontaneo utilizzare quello che viene spontaneo utilizzare nell'arto, perché la natura, cioè, allora, la riabilitazione la facciamo noi, voi e il paziente. La natura non sa che facciamo riabilitazione. Ci dobbiamo un pochettino, non dico lottare, cioè volendo fare le squadre, noi, i familiari e il terapista siamo da una squadra. Il recupero naturale sta mo di qua, mo di là. Che cosa dipende che sta mo di qua e mo ci viene contro? Ci viene contro nel momento in cui ha creato il tutto in maniera molto funzionale. Alla natura interessa la funzione, no? Il cane, quando c'ha un arto rotto, che fa? Si inventa un meccanismo di deambulazione su 3 zampe. L'altra la mette lì a terra? No, la retrae. Non se ne frega niente se gli vengono le retrazioni. Dice, adesso non mi serve. Se viene l'orso che te mangia, tu devi scappare su 3 zampe. Non devi fare riabilitazione, quindi camminare piano per, capito? La stessa cosa succede sull'arto. Lei, ictus subacuto lieve, sfumato, perché insomma chiaramente è poco, c'ha solo un impaccio motorio, deve, uno gli dice quando è che viene la prossima volta di riabilitazione, lei prende l'arto sano, il destro, magari la mancina, quindi non avrebbe neanche preso il destro, e sfoglia senza pensarci, perché l'encefalo gli dice lo devi fare il più velocemente possibile, nel miglior modo possibile, consumando meno energia possibile. Sono tutti concetti che sono validissimi per l'efficacia del movimento, no? Che noi adottiamo naturalmente. Io devo tirare una punizione, non la calcio di sinistro, la calcio di destro, perché sono un estrimane, capito? Cioè, quindi viene applicato sempre nel sano come nel patologico. Però a furia di 24 ore per 2 mesi, in cui l'encefalo gli dice utilizza il sano, utilizza il sano, utilizza il sano, la parte paretica li stiamo forse, perché chiaramente non possiamo parlare di certezze, li stiamo forse impedendo una parte importante di recupero con la neuroplasticità. Voi mi dite, ma fa la riabilitazione? La riabilitazione sono 2 ore al giorno, anzi 40 minuti per 2, 80 minuti, e questa mano la usa in 12 ore. Quindi con questa qui magari uno se la porta 3-4 ore, e con questa qui ci prova a stare a fare il computer, il telefonino, e tutta terapia. Vale per tutti questa paletta? Assolutamente no, perché se uno ha la manoplegica e io gli costringo quell'altro, sono da carcere, perché l'ho praticamente, no, l'ho immobilizzata la paziente, è antietico proprio. Quindi ogni terapia e ogni tipo di terapia va, ci vuole il targeting, cioè a chi paziente va rivolta. Quindi quando uno mi chiede, no? Ma sta paletta funziona? La risposta è? Dipende, come sempre, no? Come sempre, la vita va bene, la risposta dipende, no? Esatto, non mi espone, però fa la figura degli intelligenti. uno c'è, cioè, dopo però dovete essere in grado di argomentare, però può darsi che nel frattempo succede qualcos'altro, non serve più argomentare. Però è così, no? Quindi questo qui, la stimolazione elettrica funzionale. Che cosa fa la stimolazione elettrica funzionale? Che cosa è e qual è la differenza con l'elettroterapia? Poca differenza. Questo è il funzionale, integrale è una funzione, è sempre quel discorso proprio che dicevi tu. Giacomo? Sì. È proprio funzionale, non è che io metto il paziente con la stimolazione elettrica a fargli fare così. No, io stimolo i muscoli tali per cui si attivano quando lui deve prendere, deve fare il reaching, no? Cioè, qual è la differenza tra fare così e fare così? Questo è funzionale. Lo so, quello lì l'abbiamo detto, cioè nel senso in termini di, teorici di obiettivo di target, però in termini di stimolazione la differenza è che qua posso dare un impulso ogni due secondi, tu. Qua sia, sia il muscolo, sia la quantità di impulso che il timing dell'impulso sono integrati in una funzione. Cioè qua posso stimolare il muscolo che mi pare. Qual è? Qua devo stimolare i muscoli che sono funzionali a questo obiettivo e soprattutto far stimolare prima il bicipite che mi dà la flessoabduzione, non so, il bicipite e il deltoide, poi devo stimolare il tricipite che mi dà l'estensione del gomito e poi devo stimolare i muscoli flessori della mano che mi danno l'apertura. Quindi è una macchina che ha dei programmi. Chiaro, quello lì mica serve mica un programma, si chiama stimolatore elettrico, ce ne sono adesso a 16 canali, qua ce ne sono 1, 2, 3, sono 1, 2, 3 muscoli, cioè questo sto utilizzando 3 canali anche. Se non diciamo correttamente. È chiaro, è assolutamente chiaro, non è? No, vabbè, ma cioè, se volevate fare comunque una cosa semplice, non facevate, cioè, ci saranno, nel senso che la tecnologia sarà sempre più in soccorso vostro e mio, perché comunque diventerà sempre più, era come il computer, no? Come diceva, vabbè, però cioè, l'IBM una volta, cioè, che palle, dove fai MS, RD, non so se chi conosce il linguaggio DOS, ma no, cioè, pure mia nonna sa mandare a mail da momenti, capito? Quindi la stessa cosa per la riabilitazione, prima era una cosa per fisioterapisti barra ingegneri dell'ex DDR che si mettevano a vedere gli impulsi, la frequenza e tutto, adesso sono, hanno delle interfacce facili, comode, applicabili, basta che uno vede 3 volte lo sa fare. Io quando stavo a Bologna ed ero specializzato, ho dato il compito di seguire un tesista, abbiamo fatto un progetto sulla stimolazione elettrica funzionale dell'alto superiore. Lui era un ragazzo del terzo anno, si è fatto 40 pazienti, tutti lui, ogni paziente gli ha fatto 10 trattamenti, se li ha portati lui e se li ha fatti lui, capito? Nello stroke subacuto, quindi non è niente di impegnativo. Così come l'elettromeccanica, oppure questo qui che è un workcase molto bello, questo che teniamo al sesto piano, che lo stiamo utilizzando con Paolo Di Capua, che ci sta, la Federica Meloni che ci sta facendo la tesi, questo è un concetto. Cioè, è l'esempio di come la riabilitazione rispetto a 20 anni fa è un'altra cosa. Come si chiama? WorkAid. È una neuroprotesi o strumento riabilitativo. È una specie di anello, di braccialetto che si mette alla tibia, che ha dentro, ha attaccato con un velcro, un aggeggino che è grande la metà di un telefonino, pesa poco. Si mette sotto i pantaloni, quindi uno neanche se ne accorge, e sopra questa fascia, a livello della tibia qui, sapete qua ci passa attorno alla testa del perone, cioè il sommito esterno, fa la curva, si biforca e va giù. Nei pazienti con deficit centrale, non solo per Federico, da tardi, eccetera, eccetera, da ernia del disco, eccetera, se stimolati questi, nei pazienti che hanno il piede cadente, quando stimolato, si dice, no, può servire sia per riabilitazione sia addirittura come neuroprotesi. In America, questo aggeggino costa 7.000 euro, in America glielo passa l'assicurazione, in Inghilterra metà lo passa lo Stato e metà se lo pagano loro. Cosa vuol dire? Che se lo montano, invece di tenere la molla di Codivilla che è scomoda, non propedeutica al recupero, come dire, altera il cammino, si consuma, è scomoda per loro, non hanno la percezione del suolo, tante cose. Questa qua, ogni tanto il terapista gli riaggiusta, gli fa una sorta di manutenzione, gli riaggiusta i parametri, però è perfettamente tarata. Come si muove? Praticamente c'ha sotto questo braccialetto le due patch di stimolazione elettrica verso il tibiale anteriore, il nervo tibiale anteriore, che va a stimolare poi sia i muscoli peronieri che il tibiale anteriore, no? E questo qua si fa con in fase di setup, no? Cioè, sta proprio una fase in cui il terapi Paolo, io ci mettiamo, lo montiamo, cerchiamo prima il nervo, qual è il modo perfetto per stimolarlo, gli mettiamo una X, mettiamo la patch e lui manualmente dà le stimolazioni, no? Fa fare tipo 10 passi, una unità che registra in camera i dati, li trasmette al computer, io e Paolo li guardiamo, li riadattiamo con un programma che c'ha già il computer, lui li invia, dice ok, questo è il tuo passo, li invia alla centralina, quella lì, questa unità si toglie e la riporta solo dopo una settimana quando magari lui ha recuperato e dobbiamo riadattare il passo, e questa centralina c'ha lì, come dire, le caratteristiche di stimolazione, cioè questa persona cammina a questa velocità e fa il passo così. Quando si decide di fare il passo devi dare questo stimolo, capito? A questo serve questo passaggio di setup o di warm up, come vuoi chiamare. Dopodiché, qual è? La domanda è, chi gli dice a questo coso di iniziare? Cioè perché uno sta a letto e non si mette a far così? Perché c'ha un oscilloscopio, un giroscopio, un accelerometro dentro. Cioè quella specie di telefonino che è montato così avverte la gravità. Nel momento, quando è che uno fa il passo? Quando, quindi per fare il passo io vuol dire che avanzo, no? Quindi poi il piede cadente mi serve nella fase di oscillazione, che è da qua che mi deve iniziare la stimolazione del tibiale. Quindi lui avverte, quando la sua posizione non è così ma si inclina con la tibia, lui parte la stimolazione, direttamente così. Però se si siede sta tranquillo, no? Con botti? Meno male che la vibrazione è andata un po' avanti. Capito? L'oscilloscopio. No, però l'oscilloscopio è banale, c'era il telefonino, no? L'iPhone, cioè le fotografie si girano perché c'è un accelerometro dentro. Cioè, non è quello il concetto che ci stupisce. Ci stupisce che per fortuna e grazie a Dio queste tecnologie vengono finalmente utilizzate anche in termini di riabilitazione. Penso che l'altra parte del discorso della tecnologia che ti fa programma, non è la stimolazione sul lato tecnico, cioè la stimolazione sull'ortopedico, ok, d'accordo, il forzo muscolare, ma su un nemiplegico, un po' da fastidio di addome. Di dono, ok. Allora questo concetto. Sì, sì. Allora, sì. Insomma, questo sì è chiaro, è uno dei tabù, no? Cioè, si pensa che il paziente neurologico con le correnti elettriche, cioè proprio siano il diavolo e l'acqua santa. Dipende quale, anche lì la risposta è dipende, quale muscolo, che corrente. Cioè, adesso non più, queste le correnti si utilizzano sempre in maniera funzionale. Cos'è la stimolazione? La domanda è cos'è la stimolazione elettrica funzionale, che tipo di corrente è? È una corrente, quella lì che ha, come si chiama? Non rettangolare ma triangolare, cioè una sorta di adattamento. Poi insomma questo è esponenziale. È esponenziale, esatto, scusami, esponenziale. Questo ve lo potete far veramente spiegare meglio da Paolo Di Capo, per chi ha lì che viene magari a quando ruotate nei tirocini, no? È esponenziale come tipo di corrente. E soprattutto dà problemi di tono quando tu stimoli un muscolo che è ipertonico, ma uno non si sogna mai di mettere, a parte che ci sono dei lavori di letteratura che vanno a stimolare proprio i muscoli ipertonici, noi stimoliamo sempre gli antagonisti, di modo che per la legge di Sherrington, nel momento in cui tu contrai l'antagonista si deve rilassare, quindi riduci l'ipertono. E poi quello che anche quando è venuto a fare il corso questo americano che ci ha portato un anno penso fa, questo macchinino ce lo faceva vedere, che c'erano Tramontano, Paolo Di Capo, un po' di terapisti oltre a me, Marco, eccetera. Cioè, anche lui diceva, ormai no, i vecchi principi dogmi della riabilitazione che se il paziente in piedi in ventesima giornata gli parte l'ipertono e gli viene la spasticità fulminante che lo uccide. Finito. Le correnti elettriche che fulminano il paziente, finito. Sono dogmi che sono stati superati, anzi, non perché la riabilitazione è stata in grado in America di mettere il paziente, ormai si mette in piedi il prima possibile, non il più tardi possibile, perché se pensate al discorso della plasticità, seguitemi, io non vi voglio ergere muri, io ve li voglio smontare, ricordatevi questo. Per questo concetto un pochettino che banalmente potremmo assimilare a quello che si dice, si racconta al bambino con la benda dell'occhio pigro, no? Cioè, la mano, meno la uso, meno probabilità ho di recuperare, ok? Pensate voi a un paziente grave, con un ictus grave, che io lo lascio a letto per 20 giorni e gli vado un'ora al giorno a muovere la mano e a evitare l'ipertono. Cioè, la neuroplasticità, cioè noi dobbiamo dare delle informazioni all'encefalo per dire ricrea delle connessioni in base a quello che stai facendo. Noi gli stiamo dando un messaggio, la mia vita è questa, cioè crea le condizioni affinché io possa stare allettato. Cioè, è chiaro che viene. Qual è il fattore principale per far venire un ipertono? La spasticità. È l'immobilità. Cioè, più il braccio lo tengo immobile, più la spasticità mi viene. Come faccio a muovere il braccio se il muscolo non lo riesco a muovere volontariamente? Nel 1912, nel 1960, la risposta era plausibile. Karen e l'altro Bobat hanno creato la loro teoria, era accettabile questa ipotesi, adesso no, perché adesso abbiamo degli strumenti per permettere una motricità di questi muscoli, anche se non è la mia volontaria, aspettando che arrivi, non è detto che arriva, capito? Però c'è cioè, tutto. Là, quando io faccio i corsi opzionali di formazione per i terapisti, per i medici, la prima cosa che vi vedono è che trainer e dicono però come fanno a venire la spasticità? Su 50 pazienti, su 700 pazienti in letteratura trattati, cioè come dire, su dati pubblicati, non c'è in nessuno un aumento della spasticità a lungo termine, no? È chiaro che nel momento in cui il paziente da seduto lo mettiamo in piedi, un pochettino di piedi, perché quello è una reazione di raddrizzamento, però poi dopo gli passa e il fatto che gli ho fatto fare 1000 passi va più sul fatto positivo della bilancia che non gli fa venire la spasticità all'arto inferiore che su quella di aumentargli all'arto superiore, capito? Cioè, non so se mi porti una poca la porta, insomma, però tra quelli che l'hanno fatta nel gruppo, per esempio, anche dello studio nostro, di quelli che avevano fatto il get trainer, la spasticità non era né maggiore né minore di quelli che non l'avevano fatto, è uguale, capito? Cioè, non è quello il problema. Nella stimolazione elettrica funzionale, il movimento è iniziato attivamente? Questa domanda è intelligente, allora... Non te lo fai, Rozzi. Nel senso che nel momento in cui è iniziata volontariamente, sì, è iniziata volontariamente, poi laddove in genere le macchinine più sofisticate hanno un po' come il biofeedback, sono triggerate da che cosa? Dalle EMG, cioè il paziente riesce a fare solo così, no? 5 gradi di estensione o magari c'ha motricity index o MRC1, cioè il muscolo si contrae, se metto un EMG di superficie la soglia si alza, la vedo che contrae il muscolo, ma lui non muove, ok? Anche quello è una volontà, no? Cioè io non so, io il mio occhio soltanto è essere il giudice della volontà di movimento, un elettromiografo è un giudice più accorto perché intercetta anche quel grado, quindi il paziente magari cerca di muovere, l'elettromiografo se ne accorge, già inonda la scarica. Quando però passato tutti i parametri si aggiustano, parametro passato 3 millisecondi che non sale più la soglia, quindi vuol dire che non lo può fare di più, lo stimolatore gli dà la scarica e gli completa il movimento. Ecco, questo è un modo moderno, intelligente per creare una sorta di rieducazione effettuare in maniera compito specifico, cioè completare il movimento. Se io devo rieducare la flesso estensione, non è che io devo far fare poco al paziente, altrimenti quello è il feedback che do alla neuroplasticità. Io devo far fare tutto. Mo mi potete dire, vabbè, ma se io terapista mi ci metto la mano e gliela muovo, ok, è anche corretto, perché comunque il feedback cinestetico, quindi di percezione, di elasticità e allungamento muscolare, golgi, tutti gli organi, glielo mando il feedback, no? Però chiaramente mi dovete dar conto, e io vi dico, va benissimo, anzi meglio il terapista, perché lui lo sarà forza, lui lo stimola, lui ci sta di fronte, a parte che tutte queste cose che avete visto, cioè a parte la cinta che si può lasciare solo il paziente, sono tutte da fare assieme, eh? O questa qua quando è usato in modalità neuroprotesi, non di riabilitazione, è usato come la molla di Codivilla che se lo porta a casa, lui dorme e poi diciamo, viene da voi solo per aggiungere parametri. Cioè, voi lo potete fare, però se si tratta della flesso estensione siamo tutti d'accordo, ma se però questo concetto lo applichiamo alla deambulazione, vi mettete voi il paziente dietro al paziente a muovere a segmento per segmento, cioè premesso che voi siete di 2 metri e il paziente di 10 kg, perché se è il contrario, no? Quindi cioè, quello è il concetto importante, per quello ci devono venire in aiuto quei sistemi che vedete a destra che adesso sono rudimentali, no? Però in un futuro saranno sempre più complessi, ma ce ne sono di complessi adesso, quelli che simulano le scale, quelli che simulano addirittura lo scivolamento, però costano 400-500 mila euro. Tra 20 anni costeranno di meno e ce ne avremo, capito? Dubbi e perplessità? Nessun dubbio o perplessità? Allora, poi dopo abbiamo parlato l'altra volta un pochettino delle scale, che sono importanti le scale, non perché uno deve essere fissato con le scale, ma sono la misura per dire quello che noi dobbiamo fare e vorremmo fare. È come andare a comprare la benzina e non sapere che cosa sono i litri, cioè come la misura, quanta ne compro io, uno scaffale, i litri, no? Ci fanno comunicare con gli altri per dire quanta ne vogliamo e che cosa vogliamo fare. La stessa cosa sono le scale, quindi la Bartel per la disabilità o l'abilità, l'Ashworth, il trunk, ma soprattutto noi ci dedicheremo in questo corso alla deambulazione, quindi si parla di scale, avevamo detto l'altra volta la 6 minutes walking test che misura? Quanti metri vengono i metri effettuati? La capacità del cammino, capacità. Ricordatevi capacità che vi sembra, no, come quante ce ne ha, quanto cammina, capacità del cammino, perché ok? Poi l'altro test qual era? 10 minutes walking test che fatto alla velocità self selected, autoselezionata, cosa misura? Resistenza. No, la resistenza è sempre quello di su 6 minuti che lo mette a camminare. 10 metri, cioè 10 meter walk test, lo faccio camminare 10 metri di resistenza misura. La velocità del cammino, misuro la velocità del cammino. Invece l'abilità del cammino come la vedo? Seduto, in piedi, gira, ritorno. No, quello è il tub, il tamappengo test che però misura l'equilibrio, che è un test che vede anche l'equilibrio, il passaggio posturale e il cambiare direzione. L'abilità del cammino si misura con la FAC, che non è un insulto, ma è la Functional Ambulatory Category, che è quello lì, Functional Ambulation Category, o Ambulatory, se la si dice in entrambi i modi. La FAC, che la dovete sapere a memoria, non transigo che si finisca il corso di riabilitazione, non si sa più questa scala. Dopo il 4 si entra nell'autonomia del cammino, prima del 4 si è nella dipendenza del cammino, dipendenza che ha vari livelli: 3 supervisione, 2 aiuto sull'equilibrio, 1 supporto, 0, 2 persone non cammina proprio. Ok? Questo ricordatevelo un pochettino, anche al di là dei numeri, che poi mi verranno automatici perché sono 6, no? Però, perché quando faremo anche il corso di Lizzi, cioè con lì delle cartelle, se sempre dovete descrivere un paziente, la prima cosa che dovete dire voi non è bene, bene, buon recupero, cioè no. La prima cosa che deve venire in mente se voi state valutando un paziente neurologico e dovete descrivere il cammino è l'autonomia. Poi dopo ci mettiamo le altre aggettivazioni, entriamo nelle altre caselle da riempire. Però questa è la prima, perciò ve la dovete ricordare. Poi ci sono altri modi per misurare il cammino, no? Cioè dove sta lei da nominare, ci sta per esempio il laboratorio di gait analysis, dove si mettono dei marcatori e si ricostruisce mediante una telecamera la cinematica del movimento, ok? Su un camminamento di 5 metri. Poi ci possono stare quelle che vedete lì cerchiate del quadrato rosso, delle pedane di forza che mi dicono non solo, mentre i marcatori mi dicono la cinematica. Cos'è la cinematica? È lo studio delle forze del movimento in dinamica, cioè che vuol dire che praticamente vedo quando mi si piega, quando mi si frette il ginocchio, quando mi si frette l'anca, la tibia, in che fase ci si formano le curve. Con i markers, esatto. Invece le pedane mi dicono la forza che scambio col suolo, quindi quanto impatto nel contatto del tallone, nel rotolamento del calcagno, nella spinta del medio piede. A livello di barometrico, qua. Sì. Sì, solo che non è una barometria, cioè ti misura proprio le, ti dai i vettori. Sono quei vettori che prima, cioè nel momento in cui io impatto il suolo, no? Mettiamo che questa sia la maglia di Kirchner. Così, il vettore, io lo impatto così, il vettore sono due, uno rivolto verso di là e uno verso di dietro. La risultante è una diagonale che viene verso di qua, poi man mano che il baricentro mio passa sopra, il vettore si rettilinizza, no? Ha un'intensità crescente o decrescente. Questo è un modo moderno anche per valutare i deficit di deambulazione. Questo qui che è al quarto piano da Traballesi, con cui abbiamo fatto uno studio sempre sul che trende per vedere il consumo di ossigeno di questi pazienti, quello lì è un metabolimetro, lo usano anche i medici dello sport, misura, siamo a metabolimetro K4 e mediante la tecnica respiro-respiro analizza il consumo di ossigeno, mediante quello si analizza quanto il costo di un determinato compito. In questo caso era il cammino del paziente emiparetico e noi poi avevamo fatto uno studio, vedete lì, al gait trainer scaricando del 0, del 30, del 50% del loro peso corporeo. Questa è la strumentazione, una cosa abbastanza costosa, costa sui 15-20 mila euro, ripeto ce l'hanno pochi medici dello sport anche. Traballesi ce l'ha. La tecnologia chiaramente, insomma, quello che vi dicevo che si sta, ma lasciate perdere perché un PFN di tecnologia non c'entra più, però cioè, adesso si sta affinando la situazione, no? Quando io ero a Rizzoli e facevamo gli esperimenti non c'era questa situazione, ma quasi comunque il paziente camminava con i marcatori, con il cavo di fibra ottica, uno lo doveva seguire, c'aveva l'aggeggio dell'elettromiografia che facevamo l'analisi del cammino, no? E prendevamo tipo 18 muscoli, ogni muscolo aveva un filo che era collegato alla centralina qua dietro, e la centralina io lo seguivo sul paziente dietro, e dovevo, le pedane erano mascherate, quindi lui doveva pure beccarci nel passo, quindi stavamo lì a farci queste prove e gli dicevi prova a camminare adesso come la vignetta qua, ora cammini in modo naturale, cioè come fa a camminare in modo naturale? Cioè questo è un po' il problema della misura, nel momento in cui io vado a misurare, nel momento in cui io vado a misurare, altero un poco, no? Cioè l'osservazione di un sistema, questa non mi ricordo, si chiama, è la legge di qualcuno, non so se Einstein, cioè nel momento in cui intervengo per osservare e misurare un fenomeno lo sto alterando, mi sa la legge di determinazione di Heisenberg, una cosa simile, lo sto alterando e quindi non lo riesco più bene a misurare. È chiaramente un concetto troppo astratto per noi, però prima queste cose facevano un po' impallidire la clinica, cioè io clinico dicevo queste sono cose che stanno nel laboratorio, a me che utilità me ne ha, ne ho io se poi veramente quello che misuri è già alterato. Ma adesso no, perché la strumentazione, gli elettromiografi non sono più così e non pesano più 3 etti, ma pesano 20 grammi e sono wireless. I cavi di fibra ottica è tutto wireless, cioè la tecnologia si è molto molto affinata, non solo, prima costava 300.000 euro, ora costa 20.000 euro, quindi insomma è diventata una cosa fattibile. Così come è carina sta vignetta, no? Cioè non deve essere tecnologia a tutti i costi, cioè, maledetta tecnologia, adesso mi tocca andare pure da qualche parte, cioè nel senso che comunque mai scordarsi la volontà del paziente, no? Che è fondamentale. Vi faccio vedere un pochettino, giusto per ripeterlo a chi non c'era. Quando parliamo di presupposti neurofisiologici e parliamo di compito specificità, deriva anche dal fatto che, insomma, comunque si pensa che il riapprendimento, questo ve l'ho detto anche l'altra volta, di una funzione perduta sia simile come meccanismo cerebrale all'apprendimento normale. Questo è venuto fuori dagli studi di risonanza magnetica funzionale, dove hanno visto che quelli che leggono in braille hanno un'area somatosensoriale molto più vasta di quelli che delle persone normali, ok? Questa è una scala, gli americani sono abbastanza terribili in questo senso, no? Sono proprio, mentre noi siamo il popolo dei teorici, loro sono il popolo dei pragmatici. C'è Perry, che è quello che ha fatto fare tanta strada all'analisi del cammino dei pazienti, cioè nell'analizzare la deambulazione, si è inventata questa scala basata chiaramente nei pazienti che hanno ben recuperato la deambulazione, basata sulla velocità del cammino. Lo sapete perché ci ha messo maggiore di 0,8 community ambulators? Perché quella è la velocità per attraversare a New York o in America in generale le strisce pedonali, cioè sotto quella soglia gli diventa rosso in mezzo e quindi non è un community sta per comunità, una persona che è in grado di deambulare nella comunità. Mi sembra una banalità, ma noi riabilitatori a questo dobbiamo pensare, non è che dobbiamo pensare a chissà che. Household workers vuol dire che camminano solo in casa, da 0,8 al 0,4 al 0,8 limited community ambulators e community ambulators. E questo è quello che vi dicevo prima, no? Un nuovo approccio del trattamento dell'emiplegico, cioè una metodica diversa che hanno inventato questi due terapisti, che hanno non inventato, teorizzato, che praticamente si basa sui principi task specific, no? Sui concetti compito specifici che avevamo espresso, insomma, dove i cui capisaldi sono la pratica ripetuta e intensa, un training di forza e resistenza, i principi di biomeccanica, è una pratica che si può fare individuale o di gruppo. È basata proprio su skill motori, li chiamo, quando tu mi dicevi il semplice segmento, la funzione, addirittura loro identificano queste compito specificità in skill, abilità di vita quotidiana. Ragazzi, l'obiettivo è l'ottimizzazione della performance motoria, quella che fa naturalmente il nostro organismo. Il nostro organismo ottimizza sempre le performance motorie. Così come quando vi dicevo delle varie fasi della riabilitazione, vi parlavo sempre della organizzazione, no? della pratica, anche in questa, come nelle altre, tipo nel Bobat, cioè ci sono, come dire, delle fasi, una fase preparatoria, una fase in cui si trasferisce il training, eccetera, anche qui con il paziente si fa una osservazione e comparazione, un'analisi osservativa e comparativa di ciò che, quindi si fa prendere coscienza al paziente di ciò che non va, una pratica delle componenti mancanti, che vuol dire comporre pezzo pezzo il pezzo che manca nella funzione, e un pochettino quando nel riapprocciare a guidare la macchina vi dicono bisogna premere la frizione, voi fate il gesto di premere la frizione e basta, ma non integrato in una guida, no? Una pratica del compito eseguita integralmente, ok, con il metodo della progressione, le varie tecniche di apprendimento, però c'è sempre il compito, è un trasferimento del training nell'ambiente di vita, che può bene essere espressa dal concetto della terapia occupazionale. Queste le abbiamo viste, il biofeedback, la SEF e gli electromechanical devices. Ci avete dubbi su questi? Avevamo anche detto l'altra volta, abbiamo fatto la differenza tra electromechanical device e robotic device, no? Che l'electromechanical device, avevamo detto che era una macchina elettromeccanica che non ha un'intelligenza a bordo e non è in grado di modulare la risposta a seconda delle caratteristiche del paziente, ma è il terapista che la deve modificare. Il robot invece, impostati quei parametri, lui è in grado di modificare. È la differenza che passa tra il locomat e il gate trainer. Il locomat è un robot, il gate trainer è un dispositivo elettromeccanico. Ok, iniziamo a parlare delle nostre macchine. Questo che vedete qua, questa fotografia antica in bianco e nero, io in realtà ci sono andato in questa stanza, questa è a Berlino, dove ci sta un neurologo che si chiama Est, che è quello che ha costruito il trailer. E questa stanza qua si vede in bianco e nero, ma è veramente così triste. Io ho visto quella terapista, sembra nella Berlino, nella parte orientale, sembrava di stare nell'ex DDR, veramente. Però sono veramente bravissimi loro, con poche risorse economiche, lo vedete, no? Sono efficientissimi, cioè pensano, attuano e costruiscono, cose che in Italia ci sarebbero voluti 4.000 cavilli, 100.000, proprio efficaci e efficienti. Questo qua, che cos'è questo qua? Provate a descriverlo. La pillola. Ok. La pillola? Sì, ma lo sgravio corporeo, in inglese si chiama Body Weight Supported Treadmill Training. Quando voi treadmill training, il treadmill è il tapirulà, no? Body e corpo, weight e peso, supporto. Tapirulà è un supporto del peso corporeo. Quando vedete la sigla BWSTT dovete pensare sempre a questo. Sì, che stanno a fare i due terapisti lì? Spande pare che tu in discesa. Non ho discesa, no. Si mette in salita, si mette in salita, ma ancora non ci sono arrivati in discesa. Si inclina, ma ancora non ci sono arrivati. Beh, quello giù accompagna il movimento della... Ok, perfetto. Quello che sta seduto accompagna, guida il movimento dell'arto paretico, quindi questa persona giustamente è, come hai ipotizzato, ha un emiparesi, no? Quindi braccio e gamba gli funzionano poco, gli metto il supporto del peso perché o non se lo regge da solo o perché magari se lo regge ma per pochi passi, visto che io gli voglio far fare di più, lo imbraco per sicurezza. E una gli fissa il bacino. Esatto. Perché questa roba la stanno facendo al tapirulan e non la stanno facendo alle parallele? Ci avete tutti ragione, è tutti una cosa, un elemento utile. manca l'effetto. Perché si fa? Perché innanzitutto le cinghie vi sollevano a voi terapisti di mantenere il come siete dei montacarichi, così siete, cioè dovete guardare all'esercizio fatto corretto, mica a sostenere il paziente. Ci sono delle macchine che lo sostengano, le macchine il peso, no? Quella quindi di giù vada al controllo qualitativo del movimento. Se il paziente ce l'ha, lo corregge verbalmente, se non ce l'ha, io devo muovere. Quella di dietro sostiene il bacino. Quindi, cioè, se fosse stato alle parallele, questo paziente avrebbe fatto tre passi, al primo terapista, quello giù, gli sarebbe venuto l'ernia del disco, quella di dietro gli sarebbe venuta la sciatica, il terapista dopo cinque passi si sarebbe stancato e se ne sarebbe voluto andare in stanza. Così è impegnativa la questione, perché è impegnativa, ci vogliono due pazienti per far rieducare una persona, quindi non possiamo dire che non è impegnativo, le risorse economiche, l'economia è da tenere sempre in conto. Però questo paziente, se fa 20 minuti di questa terapia, oh raga, cioè se parlate devo gridare mal di testa, ecco, mi stanco. Cioè noi che ce n'è, se mi stanco riduco la qualità della prestazione che mi devo offrire. Sempre voi, voi le pagate le tasse. Qual è il concetto? Se, cioè, mi fa 20 minuti, il tapirulan va a una certa velocità. Qual è il concetto in base ai principi che abbiamo detto prima? Allora, applichiamo i principi che abbiamo detto prima. Quali erano i principi fondamentali? Precocità. Intensità e compito specificità. Questi tre concetti, in questo modo ve li dovete proprio tatuare nella testa, anche sul corpo se volete, però se uno non mi dice questi tre principi quando vi faccio l'esame di sta cosa, cioè precocità, intensità e compito specificità, applicate a questa metodica e diamo un giudizio da 0 a 5 su questi tre principi, no? Vai, sei volontario. Precocità e i tre principi fondamentali per Morone: precocità, intensità e compito specificità. Da 1 a 0 a 5 mettiamo 2. Dove, allora, io metterei anche un 3, però non di più, perché chiaramente precocità, se il paziente è molto molto grave, anche questa faccenda, cioè il tronco è vero che glielo controllo un poco da dietro, però un minimo lo deve tenere, perché se sta proprio accasciato così nelle cinghie, sto paziente starebbe così, quindi è vero per il precoce, ma il precoce ne sta un po' bene. Sicuramente se a questo gli diamo nel meccanismo di precocità 3, alla terapia convenzionale, quella fatta con Bobat, gli diamo 0, no? Perché questo tipo di paziente che è molto grave, se qua riuscirebbe a fare qualcosa, con Bobat staremo a fare gli esercizi di trasferimento tra il lettino e la sedia, quindi in termini di deambulazione, quindi riferita alla deambulazione è 0, però 2 e 3 mi sta bene. Intensità 3-4, non proprio 5, intensità però è buona, perché abbiamo detto che alle parallele 5 passi e ce ne andiamo tutti a casa, terapisti, medico e paziente. Qua sollevato per 20 minuti questo paziente, lo dico io, 3-400 passi li fa. 3-400 passi! Posso fare una domanda? L'intensità è in questo caso inteso in modo assoluto o relativo alle possibilità? Perché se relativo alle possibilità del paziente... Scrivete meglio, che è un po' più difficile quello che hai detto, relativo o assoluto, vuol dire? Nel senso, se l'intensità è relativa alle possibilità del paziente, io farei 5 perché, cioè, in base a quanto può fare il paziente, questa macchina glielo può far fare. Sì, ma in realtà questo è un gioco un pochettino per voi non leale, perché è facile. Cioè io vi do un pochettino di parallelo, ma perché io conosco tutte le macchine e conosco abbastanza tecniche, capito? E ho la visione chiara del paziente, voi non conoscete il logo, ma cioè, se vi do 0 e 5, lo facciamo questo gioco, ma mi dovrei dare gli estremi. 0 è il paziente immobile che non fa niente, 5 è il locomat, dove il paziente come sta comunque fa il training perché tu lo robotizzi, capito? Questo qua è una via di mezzo, il paziente è troppo grave non lo può fare, quello un po' più lieve lo può fare e fa più pratica del suolo, capito? Cioè, poi uno si può chiedere, ma il paziente che è molto lieve, tipo quella ragazza, perché di ragazza era, quella lì che aveva la palettina, la 5, no? Ce l'avete vista? Quella stava in piedi, cammina, quella che aveva fatto il reparto. Io vi voglio chiedere, ma ha senso metterla su queste macchine? No. Oh, secca. No, la letteratura medica e la ricerca ancora ce lo deve dire, ma questo noi lo intuiamo. Cioè non c'è meglio del cammino sul suolo se un paziente può fare il cammino sul suolo. Poi c'ha pure il terapista di fianco che gli corregge la postura, l'impatto sul suolo, verbalmente, cioè meglio di quello non c'è niente. È chiaro che però se quello stesso facè, è come... bisogna essere precisi, no? È come quando io vi dico muovi, non muovi, ma il mio occhio vede il movimento, e un elettromiografo vede anche la contrazione, quindi devo accettare che ci siano livelli diversi di osservazione che a me mi sfuggono. Cioè al paziente che, il discorso che ho fatto l'altra volta, il paziente che fa bene 10 passi, non è detto che 100 passi li faccia bene come i primi 10, quindi quel meccanismo di imbrago mi può servire anche per fargli fare per sicurezza, dici vabbè 10 passi li si fa, ho capito, il reparto te lo giri, se fa anche un minuto, anche 2 minuti, perché fanno 3 giri di reparto, no? Magari non tutti le riabilitazioni hanno tanto spazio a disposizione come noi che siamo portati a Santa Lucia, che uno si fa 3 giri di corridoio, magari altri reparti sono piccolini. Cioè, il terapista si accorge, lo vede, dice ok cammini, si deve accontentare, no? Dopo un po' lo vuole vedere che mantiene quelle prestazioni, anche per una 15ina di minuti. Cosa c'è di meglio per il terapista che deve aspettare di portarselo in giro e che gli crolla addosso, magari un attimo che sta distratto si scrane a terra? No, migliore circostanza e situazione metterlo su quel tapiro là dove l'imbrato, vedete qui, si vede che è sollevato, no? Però appoggia tutto lui, cioè gli sta togliendo giusto qualche chiletto per sicurezza, nel senso che se lui inciampa comunque non batte la testa a terra, cioè ci sta quella cosa che lo tiene appeso, no? Cioè è per sicurezza. Poi se non ce la fa, magari che si inizia a stancare, uno gli solleva la cinghia e dice vabbè ti tolgo 10 kg e lui va più spedito. Quindi avevamo detto precocità e intensità, la terza qual era? Compito specifico. Beh, che mi dite? Pure per me, soprattutto se ci sta questa fisioterapista qui, perché se questo fosse stato un atto abbastanza paretico come lo è, come me lo immagino, no? Cioè che lui fa un passo così falciante come lo fanno gli ictus e un passo lo fa bene, un passo falciante corto e l'altro se lo fa bene. Allora lì avrei dato una compito specificità 3, no? Perché si fa metà passo buono e l'altro un po' più lontano dal farlo vicino al normale. Però qui c'è la terapista che lo controlla, cioè gli regola le caratteristiche cinematiche del passo, cioè frequenza, stride, step length, movimento della caviglia. Ok? Qual è il problema di questa terapia? Ve lo dico io, sono 2. Uno è che in quelli veramente gravi non si può fare, si può fare in quelli che sono né troppo sfumati, perché va bene che se lo fanno sul suolo, ma stanno benone, diciamo, ok? In quelli troppo gravi questo non si può fare. E l'altro problema grosso è che ci vogliono 2 terapisti. Cioè se qua ce ne abbiamo i terapisti per fare 1 a 1, figuriamoci 2 a 1. Questo è il mondo delle fiabe, per trattarli bene, no? Però, e ha una cosa a vantaggio suo, questa tecnica, rispetto ai dispositivi assistiti e al robot, che costa poco. Cioè il tamirulaggio li hanno tutti, e quel collo di sgravio basta prendere uno di quei congegni dei pontili che monta carichi in un imbracatore e si crea, oppure li vendono le aziende tutto integrato. Ce l'ha, lo sapete chi ce l'ha? Ci sta nel Santa Lucia un meccanismo così? Sì. Chi ce l'ha? Mi pare il terzo piano, no? Chi ce l'ha? Terzo piano. Il terzo piano che c'ha? C'ha il get trainer, come al sesto e come al primo. Il secondo. Il secondo piano c'ha. Secondo piano. Avete capito? Stamattina ci avevamo stato. A che ora sono finiti noi? Non ci arrivano mai? No. Proprio fisicamente non ci arrivano mai. Facciamo 5 minuti di pausa, va bene? Sì. Ragazzi, vado un secondo a fare, ci rimane qualcuno qui? Sì. Lascio tutte ste robe?